con Alessandro Tiberio di Valmin, che insieme a Wanted Cinema e PFA Films distribuisce il film Border, Creature di confine, al cinema da giovedì 28 marzo 2019. Alessandro, ben trovato. Ciao Federico, grazie per questa opportunità. Presentiamolo a chi ci ascolta. Sì, allora, prima una nota personale. Border è stato il primo film che quest'anno ho visto al Festival di Cannes. Era uno dei film che quando sono arrivato, insomma, aveva una strana aura, se ne parlava molto con grande curiosità. Chi aveva visto le prime proiezioni era rimasto scioccato. Quindi la prima sera mi vedo questo film e dico, vabbè, questa è una cosa completamente oltre qualsiasi cosa abbia mai visto, una cosa veramente più bizzarra che mi sia capitata negli ultimi anni. E purtroppo passo il Cannes più deludente della mia vita, perché tutto ciò che vedevo dopo mi risultava completamente innocuo rispetto a questo Border. E quindi alla fine è stata proprio una scelta obbligata per il fatto che dopo una settimana mi erano rimaste impresse una serie di immagini, una serie di sentimenti, di sensazioni così profonde che veramente non mi era capitato mai niente di simile. Border è un film particolarissimo, non ha un genere o ha tutti i generi. Infatti proprio il titolo Confine rispecchia anche questo, ha una pluralità di significati incredibile perché è un fantasy, è un thriller, ha delle avventure horror, ha una fortissima aderenza a tanti temi a livello sociale che oggi sono estremamente emergenti e anche dei momenti di comicità, quindi veramente mischia tutti i generi cinematografici conosciuti più o meno. È tratto da un racconto di Jon Eyvind Lindqvist, che è l'autore di L'Arcinoto, Lasciami entrare Sì. fu insomma un cult assoluto per chi ama il cinema, per chi ama la letteratura nordica, fu veramente, credo ormai, non so se 8 o 10 anni fa, qualcosa che diede una forte scossa, perché appunto quest'autore, reputato lo Stephen King scandinavo, ma che in realtà aveva un realismo e un'aderenza alla società appunto svedese davvero impressionante, riuscendo a mischiare degli elementi di fantasy, di realismo magico, appunto, riuscendo a creare un'opera di realismo magico impressionante. In questo caso Border è sceneggiato da Lindqvist stesso, assieme al regista Alia Baldi, ed è tratto da un racconto breve di Lindqvist, quindi in realtà rispetto al racconto le necessità drammaturgiche hanno spinto a Baldi a creare tra l'altro un'interessantissima sottotrama thrilling che appunto non è presente nel romanzo e che è una delle sorprese che poi cementa tutto il film insieme. E in questo connubio diversissimo di generi, davvero impressionante, sono riusciti a creare una sorta di ipnosi proprio, di sospensione tra reale e immaginario che, vabbè, per noi è stato folgorante. Speriamo che sia così anche chiaramente per il pubblico del film. E devo dire che è un esperimento veramente molto riuscito, e tanto che poi alla fine del festival è riuscito a conquistare la giuria che era presieduta da Benicio del Toro, vincendo il premio come miglior film della sezione Amsterdam Regards. Non svelo niente sulla trama perché è una sequela continua di colpi di scena, è un gioco di cambi di regime, di registro, appunto di generi, per cui non lo voglio spoilerare, anche se da un lato è impossibile da spoilerare perché veramente è una sorpresa continua. Però, diciamo, qual è l'assunto? L'assunto è che c'è una donna con un aspetto neandertaliano, quasi deforme, che vive la propria fisicità con tantissimi complessi, ma che ha un superpotere. Di fatto lei è in grado di annusare le emozioni emozioni delle persone. E questa capacità la rende una figura chiave nel suo lavoro presso la dogana appunto svedese, quindi anche qui siamo in un confine, dove lei è in grado di annusare tutte le persone che nascondono qualcosa. E da qui si dipana appunto poi tutta la parte thrilling del film, perché lei trova una memory card in un cellulare che contiene del materiale pedopornografico, da cui parte un'indagine che poi ha dei risvolti molto ampi. Un giorno questa donna, che ha un passato poco chiaro, che ha quasi dei buchi di memoria, conosce un altro essere simile a lei. E questo altro essere simile a lei, da cui piano piano si sente progressivamente e irresistibilmente attratta, le rivela che forse loro sono qualcosa di diverso da degli esseri umani. E questo appunto dà il titolo italiano che abbiamo scelto per il film, Border, Creature di Confine. Quindi sì, è un oggetto veramente, veramente particolarissimo. Di questo regista cos'altro sappiamo? Ah, Alia Basi è a parte mi ha stupito quando l'ho conosciuto, che è molto giovane, cioè ha poco più di 30 anni, è al suo secondo film. Il primo film è stato nel 2016 un horror, anche quello molto particolare, intitolato Shelley, che non voglio fare promesse, ma probabilmente presto saremo in grado di apprezzare anche in Italia. È un film a bassissimo budget che però ha avuto una distribuzione internazionale abbastanza notevole per essere un film d'esordio del tutto indipendente, ma la particolarità di Ali è che è lui stesso un po' una figura di confine. Lui mi pare sia iraniano e come studente universitario si è trasferito prima in Danimarca e poi in Svezia, quindi anche dentro di lui c'è un'ibridazione culturale davvero impressionante, per cui se si vede anche il film, Borden in particolare, è intriso dell'immaginario del cinema nordico, ma contemporaneamente ha un'urgenza, una forza emotiva che probabilmente gli deriva da tutta una serie di come dire, istanze che provengono dai contrasti della sua cultura di origine. Però è molto molto interessante come trapelano proprio attraverso i suoi film anche alcuni confini culturali che lui stesso ha. Un personaggio molto molto interessante. Accoglienza ha avuto il film in altri paesi? Il film ha circuitato in moltissimi paesi, in alcuni stati è andato molto molto bene, negli Stati Uniti è stato riconosciuto proprio come un cult assoluto, e anche se devo dire appunto il risultato statunitense è un po' forse penalizzato dal fatto che per loro certi film sono come dire delle opere art house, e quindi questa ibridazione di generi non gli ha consentito di far esprimere il potenziale appieno del film rispetto a, no, la loro industria che sul genere thriller e sul genere horror gioca con altri tipi di prodotti. È stato distribuito in Francia, dove ha avuto un ottimo successo, in Inghilterra anche è scoppiato veramente un caso, con insomma, tantissime discussioni su tanti sottotesti e significati reconditi appunto del film. Devo dire che appunto un po' ovunque è stato riconosciuto come qualcosa di profondamente innovativo, profondamente diverso, ma con appunto una coerenza interna, un suo equilibrio tra degli elementi veramente completamente dissonanti che lo rendono un'esperienza unica. Anche In quante sale? in Italia per noi siamo insieme appunto in questo caso tre co-distributori addirittura, ma perché ci ha talmente appassionato che abbiamo voluto unire le forze per cercare di servire il film nella maniera migliore possibile, per cui da domani siamo in 74 sale, Bene, bene. quindi a livello di sale abbiamo cercato di, perché io penso che abbia veramente la potenzialità di riuscire a sorprendere un pubblico molto trasversale, per cui abbiamo mixato sia delle sale di qualità bestè all'interno delle maggiori città, sia anche alcune realtà di multiplex, perché crediamo, insomma, che sia un film che sicuramente diverte e incuriosisce e sorprende anche i più giovani. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Border, Creature di confine di Ali Abbasi, al cinema da giovedì 28 marzo 2019, distribuito da Wanted Cinema, Valmin e PFA Films. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tiberio. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, chiudo solo dicendo correte, correte al cinema perché davvero non avete mai visto niente di simile.